quanti su 10? Ciao Natalia. Chi è? Io. Io chi? Si qualifichi. Però, dopo c'è anch'io. Ciao Tony. Ciao Natalia. Allora. Mi sto mangiando un pezzo di... tocco le nocciole. Scusa, non ho capito niente di quello che hai detto. Sto mangiando un pezzo di cartò con le nocciole. Una rugata. Un poco dozzi, Io non mi fido a mangiarne di quelle cose. Perché? E non sei baloso. Vabbè. Si può trasferire una volta ogni tanto, dai. Sì, lo so. Oh, non vai mai nessuno, no? C'è un canale di mucchi, qua. Io metto lo squelce per non sentire il QRM, se no anche il fastidio del QRM c'è. E allora metto lo squelce, se entra qualcuno e lo sento lo rispondo, se no... Ma io non ascolto qua, qualche giorno era una gana. E infatti io lo stesso in ascolto. Che mi è uscito un lavoretto idrico e me lo faccio domani mattina. Mi è uscito un lavoretto? Sì, è idrico. Sostituire la sua vita referenziale con dei magnetotermici. Ah, e rimetto il quadretto perché non ce l'ha, è sempre con lo sportellino, c'è tutto comparato, la tela cotta, infatti, e stamattina tutto comprato. Sì, almeno col quadretto è una cosa più tranquilla, là. Anch'io l'ho fatto. Ma hanno cambiato anche il contrattore a me. Io ho messo il salvavita nuovo che mi si era crepato, c'era già, no, quando sono venuto, era già piazzato. Ma cazzo. A me mi ha chiamato stamattina, e io a vederlo. Sono andato a vederlo. E insomma, il cammello era senza luce dal giorno prima. Infatti sono andato, c'era mai tutti i amici, sono i differenziali abbassati, di quelli antichi, proprio il Duat. Questi sono fuori norma, non si usano più, ma lì lo può cambiare, certo. Se mi dà l'acconto, gli compro materiale e domani glielo piazzo. Quando vuole mi dà 100 euro, e ne ho speso 80, fate il conto. Figurati. Quindi guadagni 20 euro solo. No, poi per il materiale, Carla, poi c'è la mano d'opera. Ah, Gaiet. Gli do lo scontrino, quello che ho speso, gli do il resto, poi c'è la mano d'opera. Capito? No, sì, è diverso perché, ripeto, poi anche la zia di una carissima persona che conosco io, quindi mi ha chiamato lui, infatti. Sì, ho capito. Andrà bene Meda. Meglio. Ho finito il tabacco da sorella, tutto a posto. Che tu hai? La mia sorella ha fatto il pavimento. Beh, quella è già più una cosa più complessa, da fare. Ma le ginocchia mi fa zia animare, che vado male, faccio quattro. Beh, fai tutta, chi ti ha incinato. Se non lo fai spesso ti bruva amaramente. Poi specialmente il piede sinistro in ginocchio, dove sono caduto a poco il talento, oi. Mamma mia. Cazzo, sempre a te. E a me non mi hanno azzannato il cane. Il cane che l'aveva morsicato prima, quindi, la prima volta, quello che gli hanno dovuto fare l'intervento, che l'aveva truncato la zampetta in tre lunghi. Ma ho saputo che non ho morsicato. Non da musicarla, giù mai non rirugare. Manco mare va via la vetturina e non è riuscito a penetrare più di tanto, 2 centimetri sotto. Se arrivava al polmone e crepava il cane. E tu che cane è? Cosa? Il cane che ha morsicato. Il cane è di un delinquentello che abita da queste parti. Ha cominciato oggi a appoggiare la zampa, manco la zampa appoggiava, che l'ha preso nella spalla, l'ha preso e non riusciva a appoggiare la zampa al cane, capito? Poverino. Oh, ma la maggiore non vedrà il suo cane. Non ne aveva. Lo lascia. Dopo dice che Rugani non è suo, io preso. Non può. Però fanno pagare i danni. E lavorare, scopare come un matto, non finire. Che cos'hai mangiato oggi pranzo? Io gli auguro di che non lo trovi in corso trinità, glielo ho già detto, l'ho minacciato. No, passate più, no, che se no ti te lo sparo il cane. E poi vediamo. Ha detto che si rubi la puntiglia, ha detto. Secondo lo capo io. Se la c'è per un cane anch'io vi lo dirà vero. Io avrei già fatto le guardie e l'avete denunciato. Già fatto, l'ho già denunciato. Lo sapevo io. Così impara a rompere le balle. È già recidito. Cazzo, la prima voce a me mi è costato 1500 euro l'intervento di Rugani. E tutta l'estate ho perso. Perché ogni tanto dovevo andare alla clinica, no? Hanno fatto 3 interventi a Rugani. Oh, marino, hai visto che canina che era morsicato? Non lo so, io non lo conosco neanche questo cane. Perché ce l'aveva mia moglie quando l'hanno morsicato tutte e due volte. Però già ho visto a lui. Chi è? Occupo come rompere i cazzo, gli dico, io gli ho detto non ci passare più qua a me. Perché sennò lo sai. Ah, vabbè, non piglia puntiglia, piglia della puntiglia. Tu prendi la puntiglia, la giudizio. Si passa a Torreno che Rugani e Rugani non lo vedi più. Dai, come entra, non è un suo, io mi si sembra che ho un cane, pure puntiglia. Ma vabbè, la premia deve farmi la curva. Ti sto dicendo, per poco ne prende il cane dell'amica di mia moglie, uno di quei cani piccolini, un Carlino mi pare che sia, che si cura bocca manna, amici. Piccolino, dice è un cane manno, A Giomare non si chiede, ma come l'ha fatto in tempo a pigliare e a punirsi in braccio? Se no ve l'abbiamo sigato umanamente. Brava, che sa che cosa... Dimmi tu, ma come il cane mio sogno che campagna, dentro Sarrati per un salginetto e corre una bacia all'astra, la carità, che zetta. E infatti vanno bene, no, i cani in appartamento, io l'ho sempre detto, io quando c'avevo il tutto tedesco abitavo in campagna ed era libero il cane, tranquillo, non gli rompeva le scatole nessuno, e invece no, bigatta, con questi cani mastodontici, è un cane grande questo qui che l'ha morsicato, ed è due minori, due, e di mezz'andaglia erano cani miei. Ce l'ho messo il cane tuo, è piccolino. È tipo cani miei sono, così, e viaggio minore ma stesso. E ma chi te magnonno è? Di cani manni, di tipo, cosa tipo su di? Di si cani gorsi, mi deve essere uno di chissi. Beh, Brigido, mi lo mi. Chi è Brigido mi? Cinco mi. Grazie a tutti, E come sei più forte? Più forte? Dai, è sempre così. Anzi, comincio a chi non ci con lui. Pure qua sta arrivando bene Emanuele, non c'è problema. No, lo so, sempre così, io non ho toccato nulla. E quindi se pone il lastro arrivi più forte ancora, Emanuele. Sì, l'altro sì, con quello che ti avevo dato sì. Io ce l'avevo un maracchino bello, cazzo. Solo mi si è guardato e non ci può più accontare. Che mi fa di un innesco pauroso. Mi fa, e chissà cosa gatto è. C'avevo il Superstar 3009 mi sembra che sia, Bello, cazzo. Però l'ho preso nuovo, me l'avevo preso quello lì. Però mi fa questo innesco e non si può usare. Chissà cosa mi ha raso che l'ha pigliato. E non bisogna riuscire a contarlo. Perché non c'è schema. Dice che la scheda non è quella del 3009, ma è una scheda di un Cobra, non so. Ma se ne è preso poco, perché non c'è la scheda sua? Perché hanno fatto la serie per essere omologato, e gli hanno messo un'altra scheda, non è la scheda originale del 3009, che sono diversi, sono tutti componenti diversi già. Sarei dovuto venire a cercarti. e come l'ha visto quell'amico mio, ha detto no, Riccio è tutto diverso, ha provato ma non per riuscire a contarlo. C'ero qua, è nuovo, ci fa una pizzica. L'avevo imparato un gatto proprio, ma cosa ero malogato. Infatti c'ha i canali bloccati, c'ha solo 40 canali in tutti i modi di emissione. Però va che innesco e non c'è nulla da fare, era bellissimo quell'apparecchio, gatto. Mi piaceva un bel. Sì, ma se non sai cosa fa. Manuel, tu te li zitti. Ah no, tu solo di baguette ti zitti. Manuel, io non gli ho dato di fare. Come mai niente? Gigomi. Chi sono Marovizio di Rubadrino, va? Marovizio di Rubadrino, di chi sui la poi una mano in capo? Chi si affittendi, No, vai piano, che Rubadrino non ha detto di mai ne affittà. È tutta un'altra cosa, io ho detto facci piano. Non vi credono. Ha chissato sempre affittendi, chissù. No, me sto preparando la divisa che troppo devo andare a lavorare. Allora hai affittato in precedenza, vero? No, mangio prima di andare a lavorare. Ah, cappa. Se no me la dobbiamo già prima, senza prima a lavorare. Ho capito. E onde sei oggi, Manuè? Poca tramontana. Sei vicino. Epa, tu che mi ha raso il droppone, ma non mi sono travaglio, cazzo, ne ci sono, ne ci purtroppo, il bacio che fa, la notte è fatta per dormire, io infatti ho pensato il turno di notte fino alla mattina. Ma ti dirò è pesante un me. Pesante sì, su travaglio. Cazzo, troppe ore fanno. Sono metà di 8 ore. Ma tu non ovi. Cazzo, ma io ci sono 15 ore. Solo quando fai la notizia, fai un po' di giorni, cazzo, Maria, non finire mai. Sì, forse perché è troppo presto, sono le 5:30. Scusate, io devo entrare, se mi sono sette, poi lo tozzarmi. Infatti io l'ascolto dalle 5, ho sentito che stavi mettendo la portante, tu che magari stavi controllando qualcosa, e allora ho chiamato a vedere. Anche se no che c'è un canale di morti, non entra nessuno. Mi chiedo perché? Forse sono stancati tutti. Ecco. Ma Natali, com'è la popolazione così buona? Sì, io sono entrato ieri in un canale, non voglio dire dove, non ti capisco, come hai detto, stai facendo male, non ti sento bene, è stata una cosa sola, mica stai facendo bene, ma detto invece. No. Io già ti capisco, se no stavi un riposo, no? Sulle prime ieri quando sei entrato era troppo forte quel microfono, infatti l'hai abbassato perché sennò realmente non ti capisco, no? A chi ci troppo forte sul microfono? Sì, capo, forse perché quella persona arriva troppo forte. Ma noi, com'è la radio da te, guarda, in questo passaggio, aspetta. Allora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Comunque c'è bene, no? Sì, va bene così. Ecco. Ma rimane chi ti non mi tendiani. Mi pare che c'è, no? Vine gente. Quando mai cosa fa dare il controllo come si deve? Non ho capito. C'è bisogno di dire non ti sento. Se mi ribarrendi la recce, altro che non mi sei che non ti sentiva. Era incomprensibile quando stavi pompando forte con quella radio, ma una volta che l'hai abbassata è comprensibile. Ho detto forse perché sei un po' vicino lì ad Ati, a Salvaghisso. Perché poi la verità è entrato malino, ma è detto stai uscendo abbastanza bene, anche forte. Infatti, forse Marino era bello distante. sempre più distante e ti ascoltava meglio. Ma da vicino è tremendo il microfono. Così va bene comunque. Ecco qua. Non lo puoi agiare con il microfono, non è, non venne, ragazzi, quando puoi mettere un altro apparato che si adatta, lo uso, e così ho fatto. Infatti, è inutile darli, poi magari, cazzo, buchi qualche apparecchio, buono, e non hai microfono, sta più dell'idratato. Mi raggio un altro, va giù Kikio MB più 4 e poi c'è un turner più 3. Quindi se mi capita qualche altro apparecchio gli attacco il turner. Vabbè, ma non è, perché sì. Sto aspettando un po' di salsiccia, formaggio. Stai aspettando? Un po' di salsiccia e formaggio. Salsiccia e formaggio. E tu stai preparando tu sì per se c'è formaggio e per me la divisa può avere sicuro sempre maniaco il sentimi vabbè mi sono già vestito adesso devo mangiare io l'ho messo stamattina la tariffa al mio figliuccio per carità ingrassati più di prima aspetta che devo scendere giù Tony riprendo subito scappa ma non è quella barba ti fa più grasso intanto devo fare papà andare fa un po'. Allora compra i primi coppe regali, dai. Eia, che comodo. Oh, finito anche la mia sorella io. Anzi, credi che c'è il cofano pieno. Collante, sabbia, cemento, non ha giocato di farandire sopra il sacco. Certo, la ragazza è molto toccata stamattina. E mi arrendi la stessa mano. No, pomeriggio me lo sono caricato, capito? Poi dice, mi sono formato la farina, me la cappi? C'ha quelle girelle, no? Ah, gente, fa la padrina, se lo modifico ti metto il porta lampada, perché è guarda com'è, tutto cotto, la padrino. E dice, com'è così? Perché la circolina è neo, è scalda, ti metto la padrina a LED e non scalda. E così ho fatto. Allora, il pavimento tutto finto, a posto, ho recuperato il materiale, matto, mattonelle, tutto mi ha dato. Io non me ne faccio niente, dato la campagna l'ha venduta. L'ha venduta? Sì, io. L'ha venduta che poco, sono 6.000 metri quadri. La villa è bella. Ma non ci dice, ma è venuto tu, la mia sorella. Mi ha detto, si ha capito. Poi, lo rimetto sul tetto, 140.000 euro, pochi. Tu pensa, a te anche a me, dove c'è Roberto, che non beve con terreno. È la casa più minore, che la misurita va, appartamento sotto e sopra. 90 metri quadri sopra e sotto ne ha 110, mi sembra. Fate il conto, che non che devo lì a 180.000 euro, ma a fine di là vai. Erano tanti. Vai, papà. Oi, oi, oi, i sarfattori di Galluna. Luna, non ha giocato, ragazzi. Non ho voluto. Vabbè. Già passa anche questa. Oh, la ghetta è murata, Comunque. Sono in recessione con il presidente. Ma già c'è bene quello che sto usando. Quale sto usando? Il presidente? No, l'altro, quello che ti do stamattina. Sto usando bene. Ah, il presidente è in recessione, sto usando. È sotto, acceso, in stand-by. Mi ascolta la voce mia. Ma non mi dà la gara, ma che cazzo che è il fatto che lo metto. No, non c'è neanche antenna, Manuè. Santiago 3 e 4, non di più, tranquillo che no, che so queste cose qua. Mica le poco un attendino per arrivare in fondo scale nuovi, no? In cuffia ti devi ascoltare, no? Sì. Chi in cuffia mi sta ascoltando? Io ci ho attaccato le cuffie prese, te l'ho capito. Ah! Eia! A posto così. Andare, andare. A proposito, già mi hai detto come ti va, l'ha fatto della mascherina, sì, il frontalino. Devi fare apposta. c'è tutto il prezzo della mascherina. Ma io ho fatto la foto però no, non è a fare la foto, c'è su Google Maps c'è il coso della fotografia, clicchi lì e inquadri la mascherina, poi quando è inquadrata la mascherina clicchi e ti esce la foto con tutti i prezzi. Ma scusa, se la faccio come dici tu, non messi tutto il baracchino anziché la mascherina? No, solo la mascherina, anche il baracchino uguale, però ti dà tutti i prezzi. Qui devo andare su Google, devo andare? Su Google Maps, quando vai per dire devo andare qui che ti dà la posizione. E lì fai qualcosa del baracchino. La posizione. Ma non ci ho capito niente. Su WhatsApp. No, te lo faccio vedere quando domani sei in casa e ti faccio vedere cosa devi, come devi fare. Ecco dai, domani prova a scendere lì. Devi restare a scendere, sì. Ehi, ci sentiamo dopo, Tony, se sono da poi posso dare. Ok, va bene, ma ci sentiamo, dai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Tony, sono rientrato. Carta di Roggero. Oh, signor. Microfono è quello, Tony. No, capito, Tony. Ho detto che microfono è quello. Questo è uno Shure. Ah, uno Shure. Con Galaxy, ma così tanto l'hai dato, gatto. Col Galaxy va bene quello. Con Saturn è come? Chi su è una belva. E anche con questo ho visto che si esce bene, gatto. Già lo so, io ce l'avevo attaccato al Galaxy, quel microfono lì. Una belva era. Mezza zero, a rutarne più tre, partire mezza zero. Io qui sei lì. Chi non ce n'era. Mica vai giunto Lugana, vai, mi sei posto in Antallanca, con tutti e due gli zampi, vai già le appuggenti, Corarito. Cazzo, sono due medicini, sono 50 euro la giubbagati, più la veterinaria, e insomma, pure adesso li ha messi su scindini di nada. Vabbè, ma è sempre Lugana, capito? Non le hai buttate neanche le ciabatture. Anch'io per il cane non guardo prezzo, non guardo niente, capito? Certo, ci guarderei molto bene se le sciupano in un'altra maniera, allora mi dà fastidio, invece io per l'animale, l'animale, beta, non va avuto una farina. Poverino, che. Sì, infatti, la prima volta, cazzo, 1500 euro mi era gucciato e ha giù messo tutto il ricchio, a chi mi ha tanto dovevi andare alla clinica veterinaria. Io, è quello che ho passato io, per colpa di quel cane. Cazzo, me l'aveva musicato da dare dalla confidata, cazzo, e l'ha troncato la zampa in tre luoghi. Ma c'è preghice che l'ha musicato d'ora? Ehi, laggiù tu, se passi torna qui in Corso Trinità ti sparo il cane e glielo faccio mi. Cazzo, siedu, passa d'ora in Corso Trinità, è meglio che non ci passi, perché se passa vedrà cosa arriva il zio. Ma domani è buono, non so nulla, dico, ma comunque hai fatto bene se l'hai denunziato, hai fatto troppo bene. Sì, sono andato ai vigili urbani, poi c'ho un amico che guardia Ecco Zuffila, gli ho mandato anche le fotografie del cane, non solo della relazione del veterinario, Tony, perché mi ha dato troppo le balle. Beh, hai fatto bene, io me li vado troppo a testa. Poi non posso dire alla che cugino non ha, però l'ha dato un polpettone e l'avrei ammazzato lui. Ma non so neanche chi è il cane io. Figurati, mia moglie non me ne ha voluto dire, a chi lo sa che vi rudiravo. Dalla prima volta non me ne ha voluto mai dire che cane era, anche se no era andato e era più tirato da Nanzi mi Rugani, volevi ammazzarmi e poi fa capo via. Allora io sempre casino in Sizzoni e Natalì, ma io già sto in campagna e sto così bene qua tranquillo. Non veo rughi rubaghea, un non ti sei tu. Ma cosa? Io pure quando c'è in campagna nessuno mi rompia le balle, nessuno mi conosceva, chi mi fa dire ragazzi miei? Tony, mi fa dire. Nessuno mi conosceva, non ho avuto mai parole con chi che sia quando ero in campagna, la verità. Stavo troppo bene, solo che dopo sono venute i bisticci con i miei fratelli e allora me ne sono andato, ma no, a chi lo so questo cucumantino da bere questi fuggi a che mano, è meglio no, non cozzare. E ho preso e me ne sono andato, però cazzo, dalla padella alla braccia sono finito. Io che gente mara, zè. Ti sono coprivo di fare i cazzi miei in casa mia, ti immaginai, ginocchi miei. Io la traccia ho 13 anni qua. Adesso il contratto me l'ha fatto nuovo da questo mese fino a 3-4 anni. Adesso 17. Ti dirò, mi tratto bene, non ho avuto mai parole, sto così bene, tranquillo, buon bascia. Non c'è oro, guarda, a pagarlo, io sto troppo bene. Faccio per diavolo parcheggio, faccio parcheggio davanti a casa mia, me ne hanno fatto anche uno a fianco, io ho più forza, se viene un amico lo mette a fianco la macchina, e anche le baracchine oggi penso come ho voluto io, nessuno mi ha detto nulla, quindi sono troppo tranquillo. Infatti, invece no, che sei privo di ogni cosa, non puoi fare nulla, ho dovuto attaccare solo l'antenna di qua io e quella del televisore, e basta. Se io devo accucciare un altro canale non lo posso fare, ma cosa faccio un'antenna azzurra? Perché io avevo messo una multibanda fuori dalla finestra, no, attaccata a una strada, non la usavo né per trasmettere né per niente. Subito mi hanno detto che ero di tribenda, ti immaginesi? La gente ignorante, ma bastarda che c'è da queste parti. Purtroppo. È così lì. È un casino. Allora, tempo fa, quando la buon'anima di mia suocera mi fa, l'avevo morto un dipolo, un pezzo di vino, non si mi riascio. E avevo detto di fronte che te avevo detto, guarda, che cosa, io pensi più per sé, signor, ma cosa stai dicendo? A me che niente, ignorante proprio. Se ti sto dicendo che guarda, non puoi fare nulla, ne l'ho dovuta togliere un'antenna di macchina, mi multibanda per ascoltare l'avevo messa, ne l'ho dovuta togliere, che se no mi diziano chi dice il babbo, già fai concetta e noghi ti rubo di, non puoi fare nulla e noghi, guarda. Sì, lo so, cazzo, oggi posso andare 6 metri, non ho più l'antenna, ho fatto il conto che ho 6 metri, non è dovuto da nessuno. Oi, per carità, no, io sto così bene qua, Natale. Poi c'è lo spazio anche per i cani, tutto chiuso, il giardino abbastanza grande, lo corro, giro una parte all'altra, ho messo le luci, quei pannelli solari, un'altra cosa, dai. Non mi posso immaginare, sono rugani, voi sì, libero, è inutile, in un coso, in appassamento rugani, tanti mari, tocca buttarlo, a chi rugani non è come c'era iatto, rugani bisogna attendirlo, bisogna, non è poco di fare. Questo posso essere utile. Io non c'è lui, sono due sorelle che cani, grazie a Dio solo la malinconia si miglia invece in lui, diverso, si giocano tutti e due, si corrono con l'altro, abbaiano, no, è tutta un'altra cosa. Poi sono mai affettuosa a me, mi ando io bene burretti. Infatti, in chi mi ricani casi di re, a chi sono liberi, in campagna stanno troppo bene i cani, quando uno c'è il giardino così come te, li può tenere i cani, ma in affacciamento il cane è sempre usato a raggio, tranne quando tu lo devi buttare a fare così sui. Ma ti sembra logico che mi chieda di sposarla prima di... Infatti io non lo volevo questo cane, l'ho preso per mia moglie, se no non l'avrei preso, perché a tenere un appartamento è come trattarlo male, secondo me. In campagna non sono guanti navio di cani, se ci avviene benissimo. Beh, il cane, il suo habitat è lì, capito? Occorre divertirsi, rotolarsi e paghi su voi. In casa non può fare tutto quello che vuole. A me c'è l'ermeta, le vuole, è tutta un'altra cosa, dai. Fare i bisognini fuori. No, no. La notte libero nel vostro vultro mi tra tua casa. Anche se ve la puciamo una manna, ho inventato tutto quanto, però vanno i freddo Bovarini. E io ci tengo. E quindi c'ho una bella coperta vecchia sul divano che la metto quando loro la notte si trovano i chivi. E il manzano poi la cavo. E sono tutti pura. Infatti, quello mio, il pastore tedesco, lo mio dormiva dentro casa. Però lo manzano era ribaro, lui. Ma va benissimo. La notte logicamente ne rientravo, Bovarini, vanno i freddi, in chi mi fa di freddo, mi dica di lui. Vabbè. Turco e calcino Vaticane, no, io l'ho preso perché c'è il posto, se no non l'avrei preso, ed è andata bene, e infatti, e che vuoi che ti dica? Infatti io non lo pulivo il ciugane, l'ha giubilato ma mia moglie di mia, se no non l'ha giubilato. Ma cosa tocca buttarlo? Il ciugane va atteso, invece la iatta sta via tranquilla in casa. Le cose sono di partire nella lettiera, invece il ciugane è diverso. Il cane vuole atteso per forza. Dove buttare, lui deve buttare lì. Deve piacere, può fare pipì, non è che... è l'ideale in casa, no, non fura, dove conosce già i suoi segnali, dove li ha fatti, qua dove c'è l'ermetta, è tutta un'altra cosa. No, ma il cane, dai, a me fa sempre di compagnia, è tutta un'altra cosa, andare lì, dai. In Cantaghisso non ripuoi di niente, il ciburo è affettuoso, Rugani, troppo bello, pare una, pare, le manca la parola, le manca. Poverino, cazzo, non riusciva a tenere la zampa in terra, a me, di quanto gli faceva male. Amaro, gli so godendo l'antibiotico, l'antinfiammatorio, gli so godendo. L'importante di Milano, poi che cosa ti batte? Pare che sia andando bene. Non lo so, le cose. Ecco, si è fittato. Lo so, i cani sono cani, e ripeto, io dico sempre, meglio un cane amico che un amico cane, anche così. Lo cane non si tradisce mai, Natalino, da tutti i tipi. So, a me tiene male compagnia, sono affettuosi, tutta un'altra cosa. E se non sgridi, poi ti viene, ti lecca, fa delle coccole, che dopo, so, a me no, non c'è delle niente. Perché vengono a scusarsi, già lo so già, e ti fa un bel di compagnia il cane, ti fa. Ma ci credo, Cavallo, veramente, ciao a te. Oh signor, cazzo, non pensa neanche a che ora è, cazzo, già riceso, ma così, grazie a Dio. Non ho compito dove? Non si è compreso nulla. Cosa, Toni? Avete paventato di lui. Ah, ecco, parola. E vabbè, coso, Manuele. Io con le cuffie sento tutto cose strane, cazzo. Natalia! Oh, signore. E vabbè, il consiglio è sempre. Natalia ti chiamano. Ti stanno chiamando? A te stanno chiamando. E tu aspetta che tolgo lo squelci, che tutti stanchi. Avanti, chi chiama? Manuele. C'è uno fuori frequenza, sento, basso, oh, Toni. Fai un passaggio più lungo. Ma no, non è Manuele. Ah, chi non è Manuele? Manuele arriveva in Obi. È un bel basso, io. E infatti, non ho capito neanche cosa stava dicendo. Anche fare il passaggio più breve. Io non lo ascoltavo neanche perché c'avevo lo squelch inserito. Mi ha dovuto togliere lo squelch per sentirlo, ma non ho capito chi è. No, io avevo il locale inserito, poi ho messo in X, adesso il segnale più alto, però fa passaggi molto brevi, che sarebbe l'RFI praticamente. Già ho capito. No, io avevo lo squelch direttamente. Per non sentire il QRM mio. Vabbè, ancora sentivo tre QRM mio. Però lui non lo passava lo squelch, quindi io non lo sentivo, hai capito? Vabbè. Attenzione, canale di morti, chi c'è? Tu che chiamavi Natalino, che fine hai fatto? Se chi sai, entra due, tre voci, Natalino, Natalino, e poi non entrare più. Almeno dica chi è e cosa vuole. Questo che secondo me... Oh, ragazzi, vi saluto, che mi metto in mafia. Ciao Torino, ciao Natalino, ce la riascoltiamo. Buona serata, buon tutto. Ciao Manuel, ciao, stammi bene con Trabacco. Ciao a tutti. Ciao Manuel, buon trabacco, buon tutto, alle prossime. Ah, Emanuele arriverà. Emanuele dice forse non mi pare di sette colori. Infatti. Emanuele anche lo squelci mi passava, quindi lo sentivo bene, chiaro chiaro io. Anda bene Leda. Per le condizioni come cui sta lavorando a casa sua, arriva ben forte qua. Ma che so come sta facendo lui, con un attimino mi ci dico. E tu lui ci vede. Scappa di Rogero. Manco un po' forse vero. Ah, già vero, chi dove entra solo quando è poco. Vabbè, Tony, io devo aiutare la 50, che dobbiamo fare una cosa qua. Ci sentiamo più tardi al limite, dai. Ok, d'accordo, Natali, mi vado poi con Rizio. D'accordo, ci sentiamo. Ciao, salute mia concetta, ciao. Ciao.